Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome, welcome, welcome at the sound check. This is it. Buonasera a tutti da Gegè Telesforo e Francesco Tromba. Ciao a tutti. Eh sì, questa sera potremmo definirla The Glasper Night o Glasper Evening, perché oggi parliamo di Robert Glasper. Abbiamo deciso di dedicare a questo personaggio uno dei nostri soundcheck, pur avendolo ormai raccontato nelle ultime quattro stagioni, perché è stato uno dei protagonisti proprio della scena musicale americana internazionale, con le sue produzioni, la sua mentalità e soprattutto con questa band fortissima che sono gli Experiment Band e produzioni discografiche che hanno permesso a Robert Glasper di diventare un protagonista della scena musicale, vincendo anche diversi premi Grammy Award e diventando probabilmente anche ricco in pochissimo tempo. Beh, direi di sì. Ha praticamente monopolizzato in un certo senso la scena del jazz R&B, nel senso che lui, oltre appunto al suo lavoro con gli Experiment, è presente in quasi tutte le produzioni migliori degli ultimi 10 anni, possiamo dire, perché veramente con le collaborazioni ha collaborato con Kendrick Lamar, ma anche, per dirne uno ultimo, con Mac Miller. Veramente sta in tutti i dischi migliori del black music degli ultimi anni. Allora facciamo una cosa, Francesco, raccontiamolo anche in maniera biografica, andando in ordine. Io quello che voglio dire è che stiamo parlando di un musicista preparato, quindi non solo un formidabile imprenditore, che è una qualità oggi che un artista deve assolutamente avere, perché siamo nell'era digitale, nell'era di internet, e sappiamo che la musica viene anche scaricata abusivamente, quindi ci sono tanti aspetti da considerare, ma Robert Glasper è un musicista preparato, diplomato in musica alla New School di New York, che è diventata un po' l'alternativa al Berklee College of Music di Boston, senz'altro una delle scuole più care economicamente parlando, ma dalla New School di New York vengono fuori musicisti strepitosi delle nuove generazioni. E poi Glasper è giovanissimo. Quando è nato? Sì, lui è nato il 6 aprile del 1978 a Houston, Texas. La sua prima influenza musicale gli è stata data dalla madre, che si chiama Kim Yvette Glasper, che oltre appunto a suonare e a cantare jazz e blues in maniera proprio professionale, era anche lei che dirigeva il coro della chiesa locale. Lui ha infatti iniziato a suonare e a cantare nel coro della chiesa e si è esibito in realtà in moltissime cerimonie anche di diverso stile, cioè nel senso che ha suonato nella chiesa battista, in quella cattolica e anche negli ambientisti del settimo giorno, quindi comunque abbastanza particolare la sua prima esperienza. Però il punto, lo snodo principale, è stato quando appunto si è trasferito a New York per frequentare la School of Jazz, dove ha incontrato Bilal, con cui ha realizzato il suo primo disco quando aveva 26 anni. Sì, era il 2004, l'album si intitolava Mood. Adesso noi potremmo anche suonare alcune tracce dei primi album, perché ne ha realizzati 9-10 a suo nome, ma un'infinità di collaborazioni fino ad approdare alle colonne sonore di produzioni cinematografiche importanti come quella realizzata da Don Cheadle su Miles Davis. Direi di partire con la musica dal momento fondamentale della sua carriera, quando, sempre sotto contratto con la Blue Note, ha deciso Glasper di cambiare un po' la sonorità, ovvero di realizzare un album con la mentalità tipica del musicista di jazz, ma mettere a frutto anche tutte quelle esperienze che lui aveva fatto in produzioni hip hop e contemporary R&B. E quindi l'idea di Glasper è quella, in questo album intitolato Black Radio Volume 1, di utilizzare questa band fortissima per supportare poi le voci di alcune guest star, fra le quali anche Erika Badu, che interpreta qui in apertura del nostro soundcheck la sua versione di un classico del jazz contemporaneo latino, creato da un brano scritto da Mongo Santamaria, intitolato Afro Blue. Una star dell'R&B contemporaneo come Erika Badu, protagonista con la sua voce di questa versione di Afro Blue di Mongo Santamaria dall'album Black Radio volume 1 di Robert Glasper con i suoi Experiment, album che vince subito un Grammy Award. Sì, è molto interessante anche l'approccio che ha Robert Glasper nel presentare e nel creare questo nuovo sound, nel senso che appunto Black Radio non è una radio nera, ma semplicemente sarebbe praticamente la scatola nera di quel vediamo negli aerei, quindi in un certo senso lui intende per scatola nera tutto il repertorio musicale, tutte le esperienze musicali che ha avuto fino a quel momento, e quindi recupera l'hip hop, il jazz, il gospel, l'R&B, il gospel, e cerca di fonderli in un unico suono, senza cercando di renderli appunto tutti come se fosse un solo suono, come se fossero una sola canzone, e stranamente ci riesce. Ci riesce, e tra l'altro quello che viene pubblicato poi per Black Radio One non è tutto quello che Glasper ha registrato in studio, perché subito dopo la pubblicazione di Black Radio One vengono fuori tutta una serie di remix e di pubblicazioni parallele che in qualche modo gratificano Robert Glasper, perché inizia attraverso questi remix anche a frequentare classifiche non così vicine né al soul né al mondo del jazz. E tra l'altro l'idea di Robert Glasper, pur registrando per la Blue Note, è quella di non entrare nel catalogo jazz, per esempio su iTunes, ma di puntare direttamente all'R&B, e vince in quella categoria il Grammy Award. Eccolo qui Robert Glasper, ascoltiamo soltanto una parte di questo Black Radio Recovered, ovvero brani recuperati da quella produzione ma non pubblicati in Black Radio One, e questo è Dilla Lewd, un tributo al grande J. Dilla da parte di Robert Glasper con i suoi Experiment. Soundcheck, il suono della musica. Fly high, shine. Fly high, fly high, fly high. Sì, parliamo di Robert Glasper con i suoi Experiment qui al Soundcheck Radio 24 di questa domenica insieme a Francesco Tromba, e questa era Jesus Children, una composizione di Stevie Wonder rivisitata dagli Experiment di Robert Glasper con la voce della formidabile Lala Hathaway per la produzione, ovvero il capitolo numero 2 di Black Radio. E con questo brano ancora una volta fa centro il signor Glasper, perché vincono un altro Grammy Award. Sì, riesce a fare quasi meglio del primo, incredibilmente, perché comunque rende ancora più fluido il tutto il progetto, veramente riesce a coinvolgere comunque degli artisti fenomenali, soprattutto riesce a coinvolgere anche tutta un certo tipo di audience che in precedenza magari lui non aveva. Allora cerchiamo di capire che cosa ha fatto Robert Glasper, bravissimo musicista, tra l'altro è anche un bravo musicista di musica classica, cioè uno che i suoi studi li ha fatti, musicista di jazz contemporaneo che frequenta l'ambiente dell'hip hop e del rap afroamericano, tantissime collaborazioni, realizza un nuovo album per la sua etichetta discografica, ovvero la Blue Note, che apre le porte a un nuovo sound, ovvero la Blue Note è una etichetta classica che ha fatto la storia del jazz, pubblica un album nel reparto R&B, quello di Robert Glasper con Experiment, che bisse il successo con Black Radio 2, coinvolgendo le giovani star dell'R&B contemporaneo. Quindi non ha preso i grandi nomi, a parte Erika Badu, che sicuramente era quella più accreditata, come Jill Scott, ma personaggi fondamentali che oggi stanno segnando il percorso di questo genere. Sì, anche personaggi che provengono dall'hip hop, quindi comunque è abbastanza variegata l'offerta. C'è anche Snoop Dogg, no? Sì. Però appunto la cosa interessante di Robert Glasper è che dopo aver raggiunto il massimo, possiamo dire, del successo, perché dopo aver vinto tantissimi Grammy Award, dopo aver fatto delle tournée internazionali dove forse non ha avuto neanche un giorno di pausa tra un concerto e l'altro, cerca una dimensione diversa, cerca di tornare un po' indietro, una dimensione un po' più intima. Sì, e che cosa fa? Riunisce quello che era il suo trio, cioè i musicisti con i quali si era formato e con i quali aveva iniziato a proporre musica nei jazz club di New York, ovvero Robert Glasper in trio con Vincente Archer e Damion Reed alla batteria, realizzano un live nei Capitol Studios, questa è una pubblicazione del 2014, realizzando delle cover di brani famosi che vengono da repertori diversi come il rock o il pop, e qui Robert Glasper ci propone Good Morning, ovvero dal repertorio di John Legend. Ecco. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. E viene fuori tutto l'amore, tutta la passione di un musicista come Robert Glasper, ma anche la nostra nei confronti di un eroe del jazz, un visionario come Miles Davis. Album intitolato Everything's Beautiful che Robert Glasper realizza con tutta una serie di star, in questo caso c'è anche la partecipazione di Stevie Wonder in questo brano dal titolo Ride On Brother. Glasper lo realizza subito dopo il grande successo ottenuto in modo particolare negli Stati Uniti da Don Cheadle, e quindi la colonna sonora di Glasper per il film di Don Cheadle su Miles Davis. Sì, è l'approccio interessante che ha avuto comunque Robert Glasper, è stato in un certo senso quello di realizzare un suo sogno, di avere un'ambizione grandissima, ovvero quello di collaborare con Miles Davis, nel senso che lui appunto è partito dalle composizioni originali di Davis per poi rielaborarle come se fosse ancora in vita Miles Davis, come se fosse una vera e propria collaborazione tra i due artisti. Un'altra cosa che mi piace ricordare è appunto la copertina del disco, che somiglia molto ad un lavoro di Jean-Michel Basquiat, un personaggio che è stato fondamentale nella cultura black degli anni, fino agli anni 90. Sì, è anche molto amato da Miles Davis, che come sai aveva la passione per il disegno e amava disegnare. Allora, Robert Glasper chiude questo appuntamento del nostro soundcheck con un brano tratto invece dall'ultima esperienza discografica, Art Science, album che a noi è piaciuto ma non ha avuto il riscontro di vendite sì. Che hanno ottenuto Black Radio 1 e 2. Glasper con gli Experiment, il brano si intitola No One Like You, dura 9 minuti, naturalmente noi ascolteremo quello che possiamo. Sì, ricordo l'appuntamento con Variazioni su tema mercoledì alle 21:15 su Rai 5. Bravo, di che parliamo? Parliamo della Viva l'Indipendenza, il titolo della puntata. Interessante, a tutti voi buona domenica, ci risentiamo sabato prossimo 19:15 qui su Radio 24.